Ma scusa, bella puella, come sarebbe a dire che non mi conosci bene? Eh? Io ho un curriculum di tutto rispetto, c'ho un modus operandi che lei vede. E su, e dai, che dobbiamo aspettare? Post mortem, non ce lo sai che il tempus fugit? Carpe diem, no? Ah, ci stai? Oh, Deo gratias. Allora come famo? A cosa se vedemo? Hic et nunc? A priori? A posteriori? Ad maiora? Ad personam. Perfetto, dai, vedrai che se divertimo ad libitum. In vino veritas, saecula saeculorum, si capisce. Ave. E quando dico ave, ho detto ave. Alla prossima. Ave, ti ricordi di me? Zero Calcare, Lorenzo Orsetti, detto compagno Orso, è stato ucciso dall'ISIS in Siria. Nei tuoi disegni ti sei occupato della lotta partigiana dei curdi. Lo conoscevi? No, nel senso lo conoscevo virtualmente, poi non è che lo conoscevo di persona, però era evidentemente uno di noi. L'opinione che ho è che, a parte ovviamente il dolore e la rabbia per quello che è successo, è che in questo momento lo stanno celebrando un po' tutti gli organi di informazione e pure le istituzioni, mentre se fosse ritornato vivo dalla Siria probabilmente adesso starebbe sotto processo insieme agli altri combattenti che sono tornati e che aspettano il 25 marzo un'udienza per la sorveglianza speciale e il divieto di dimora a Torino. E poi in generale penso sempre che c'è questo paradosso del fatto che noi, un noi allargato che in qualche modo odiamo le frontiere, poi ci troviamo a pagare il tributo di sangue più alto nella lotta contro l'ISIS in Kurdistan per difendere i valori del Rojava, e invece tutti gli ultra del filo spinato sono buoni soltanto a vedere la gente affogare in mare, insomma. Eccoci. Buonasera dall'Accademia della Brusca. Buonasera a tutti e a tutte e a tutte e a tutti. Tutte. Abbiamo così aperto il post sigla con un'intervista di Zero Calcare, perché di cose ne sono state dette tante, noi non avevamo le nostre da dire perché sarebbero state banali ormai in questo turbinio di informazioni, e abbiamo scelto le parole che abbiamo, insomma, reputato più interessanti, più giuste, più valide nel contesto odierno. Quelle che effettivamente forse condividiamo maggiormente, perché si potrebbero dire tante cose, ma appunto ne sono state dette anche troppe, per cui lasciamo un silenzio stampa o quasi, e lasciamo appunto parlare, abbiamo lasciato parlare Zero Calcare anche per noi. Ecco, è settimana triste che è iniziata molto male, la radio se ne è occupata, chi in un modo chi in un altro, e se ne occuperà certo, e vari siti dei vari amici a noi vicini se ne occupano. Che dire, appunto, c'è poco altro da dire perché si rischia di essere banali, e finiamo qui, ecco. Con il nostro cuoricino spezzato, però rabbia e tristezza, esatto, che sono due sentimenti che insieme fanno male, e quindi fine così. Però allora ritorniamo un po' alla nostra vita quotidiana, al nostro settimanale intenso che parla di linguistica e modi di dire. Abbiamo aperto la trasmissione con Giulio Cesare. Neri Marco Re. Giulio Cesare che parla al telefono con tutti i suoi modi di dire. E questo, quindi è una sigla colta. Cosa vi fa intuire? Di che cosa parleremo? Non di Giulio Cesare. Non direttamente. Ieri sera sono stata a cena da un'amica e un nostro amico in comune che ben conosci anche tu, ha tirato fuori il tema Cristoforo Colombo. Wow. E abbiamo così cercato di comprendere quali sono i veri significati che stanno alla base del modo di dire l'uovo di Colombo. Ah sì, quindi l'avevamo dedicata a una trasmissione, esatto. Se non erro, forse a figure retoriche? Slick Chick? No, l'avevamo regalato questo modo di dire. L'uovo di Colombo. Sì, bisogna sì, che sì. Andiamo un po' a riscavare sì, nei sì, nostri sì, archivi. E anche a regalare nuovamente altri modi di dire alle nostre trasmissioni amiche. E tra l'altro una cosa che vorrei fare da tanto tempo è iniziare ad aprire la nostra trasmissione numerandola, per cui siamo alla puntata, io penso saremo quasi alla 300. No, no, io vado a recuperare tutte, le riconto e veramente partiamo. Fai questo. Sì. Wow. Quindi partiremo con 1500esima puntata. Come beautiful. Che bello. Nuova sigla. Andiamo. No, è questa, sì, è questa. Sì, è quella. Ecco. Non l'ho mai visto beautiful. Devo dire così. È vero, non è una di quelle cose che si dicono per sembrare meno stupidi, perché tanto lo sono comunque, ma non l'ho mai visto. Ho visto cose peggio, quindi meglio così. Ve lo assicuro, non era quello il motivo. Bene. Allora, quindi che cosa ci racconti oggi? Allora, Lina? Oggi riprendiamo il nostro volume, La vera storia di 400 frasi celebri e modi di dire, edito da Demetra e scritto da Sabrina Carollo, e ci occuperemo in maniera più approfondita di alcuni detti molto molto bellini che riguardano la parentesi storica, se così vogliamo dire. Bene, ti do la possibilità di sceglierli a caso, sono una miriade e tu li prenderai a caso e io mi associerò con quello che c'è da ascoltare successivamente. Allora, ne prendo uno a caso in realtà. Che mi ha un po'. In realtà non è uno di quelli che abbiamo scelto, vedi? Mi piace fare i fuori pista. Nemico pubblico numero uno. Si usa per identificare una persona considerata pericolosa per la società o anche in tono scherzoso per indicare un amico combina guai. Allora, la nostra cara Sabrina Carollo ci riporta questo episodio. La locuzione deriva dalla terminologia americana. Fu usata per la prima volta nel 1930 da Frank J. Loesch, allora responsabile della Chicago Crime Commission, per definire Al Capone e la sua organizzazione criminale. Al Capone era il nemico pubblico numero uno. Però questo nemico pubblico numero uno e non è, diciamo, solamente circoscritto all'ambiente americano, perché ce l'avevamo anche in Europa e in tempi molto molto molto più recenti. Era il marsigliese Jacques Mesrin, uno dei miei delinquenti preferiti in assoluto, tra l'altro ritratto meravigliosamente bene in un doppio film con Vincent Cassel, che uno a caso, no? E anche lui è stato definito dalle squadre speciali, dalla polizia francese, che ci ha messo ben 25 anni ad arrestarlo pur sapendo dove si trovasse e che più o meno connotati avesse, lui era un grande trasformista, e appunto l'hanno chiamato nemico pubblico numero uno. Guarda. E quindi hanno fatto occhio per occhio e dente per dente. Ovviamente. E quindi che cosa mi ci abbineresti? Cosa? Innanzitutto ho un pezzo da sottofondo musicale che parte subito con. E voi non potete capire, non potete vedere che cosa stiamo vedendo noi ora sullo schermo della nostra regia, perché è veramente. Eccolo. Questi violini di sottofondo mi mandano veramente di fuori. Perché Garibaldi? Per la madre di tutte le battaglie? Ma per no, solo Divide e Timpera? Solo perché ci stava proprio bene. Per come Cicero Prodomo sua? No, per no, colpo no. Di grazia. Allora, però, appunto, Abbiamo aperto con questa bellissima pubblicità con Neri Marco Re e quindi mi piacerebbe raccontarvi del Cicero Pro Domo Sua, latino che significa cicerone per la propria casa. È la locuzione che si usa per indicare chi difende con molta partecipazione una causa, sottendendo che lo fa perché ne è direttamente coinvolto, perché sta parlando per interesse personale. Cicero Pro Domo Sua. La frase deriva da un'orazione di, ovviamente, Marco Tullio Cicerone, nel De Domo Sua, appunto, del 57 a.C., in cui questi chiedeva al Collegio dei Pontefici che gli fosse restituito il terreno ora consacrato dai suoi avversari a una divinità, quindi insomma c'erano situazioni demaniali complicate, su cui un tempo sorgeva la sua casa che aveva trovato distrutta dopo essere tornato dall'esilio. Immaginate questo povero... Un applauso per Cicerone. E quindi Cicero Pro Domo Suo. E... Non so, vada lei, io... Io ne voglio sentire un tanti. Altro. Sì, sì, sì, sì. Quindi sì, andiamo sì, a ruota. Sì, questa sì. Sera andremo a ruota. Dobbiamo leggerne tantissimi. Andremo a ruota libera questa sera. Vediamo un po'. Tra l'altro, il latino è una dei, diciamo, una delle bestie nere delle scuole superiori, soprattutto, e soprattutto per i licei classici e linguistici. E io mi ricordo di aver imparato. Una, in realtà questa è una cosa molto più storica che è strettamente legata al latino, che è habeas corpus, letteralmente abbi il corpo. Il nostro prof di storia ce lo diceva per incitarci, no? Dai, su, habeas corpus. Dal latino le parole indicano un diritto sancito nella Magna Carta Libertatum, approvata nel 1215 dal re inglese Giovanni Senza Terra, in seguito divenuta poi legge e ratificata nel 1679 da Carlo II d'Inghilterra, il Corpus Acto. Comporta questo habeas corpus il diritto di una persona ad avere un giusto processo. Habeas corpus era infatti la frase che pronunciava il giudice alla polizia per aver presso di sé il condannato e poter procedere con il processo. Procedere con il processo, senti un po' che assonanza, che alliterazione. Fino alla definizione della legge, infatti, gli arresti erano spesso abusivi e non venivano regolarmente, non venivano, diciamo, regolamentati da un seguito giudiziario. Per estensione, ora invece, l'habeas corpus indica tutto il complesso di leggi che tutelano l'indiziato e lo garantiscono contro eventuali comportamenti illegittimi. Ci ricolleghiamo un pochettino anche al finale della puntata della settimana scorsa, in cui abbiamo parlato del codice Miranda e di altre, diciamo, terminologie legate alla legge. Ma noi dicevamo prima, no? Il latino, crucio di tanti. Noi questa sera ve lo trasmettiamo con questa serie di frasi celebri, diciamo collazionati, come si direbbe nelle edizioni critiche, da Sabrina Carollo, però ovviamente dobbiamo lasciare spazio anche a un grande esperto di latino, storia, geografia degli anni 90. Colombo, va bene? Si può fare? Pigliamo la cartina. Dov'è la cartina? Forza, vediamo un attimo. No, questa è la cartina. Scusate. La cartina, Lorenzo. Ma io dico... La cartina, quella... Ecco, tu stai zitto per piacere con quella batteria adesso, non per... Batterista, essere... può... Stiamo facendo musica? O può fare batterista, può mischiare. Vabbè, avanti, vediamo se... Questa è colui. Vediamo un attimo. Andiamo la mareggi. Mettiamola anche a favore. Ecco, vediamo un attimo. Mi fai vedere per piacere, beh, con quei piedi. Questa, ma non è che stiamo a fare geografia. Stiamo a mischiamo chiunque sono a geografia. Non stiamo a mischiare. Stiamo facendo Cristoforo Colombo, personaggio storico, va bene? Storicamente. Non mi è fai che esce fuori che poi era uno del latino lui, no? Senti. Sta fastidio. Vabbè, storicamente mi fai vedere per piacere la rotta di Cristoforo Colombo? Vabbè, ancora la rotta, vabbè. Arrivo. Scusami, non ho capito, ma come... Questa, passano tutte. Ok, ma come c'è andato Cristoforo Colombo in America? Beh, penso, sui tempi, da 600. Ma che... 600. Ma non ho capito, ma a quei tempi non c'erano le macchine ancora. Vabbè, sta di antelittera a me, questa. Ma che antelittera? Sta sformando i modelli, si sa. Ma scusa, ma allora secondo te Marco Polo come c'è andato in Cina? Ma tu sei detto da solo, capo, no, vabbè, scusa. Marco Polo, sei via, ma non è quello del mio, Marco Polo. E allora? Ma a quei tempi il gommino era la volontà, come sta scherzando? Poi si va Marco tutti quanti, tutta la ciurma sua, tutti. C'ho sponso Polo dietro, tutta la ciurma. No, guardate, scusate, basta, Lorenzo, basta, io non lo so, io getto la sponda, non dovrei, ho anche un programma didattico davanti ai genitori che mi seguono, però io voglio dire veramente, ma lo sai che un tempo gli esami erano tutte le materie, tutte le date, tutti gli anni si portavano? Ma porca miseria, sono quattro cose che ti devi imparare, quattro scemenze. Oh, ma non ce la faccio, a seguirla. Ma che cosa? Ma che devo fare costume? Ma questo non ce la faccio. Ma mi scoppia il cervello, sta scherzando. Ma chi ti fa? Ma Robespierre passa sempre, e prima si sposa a Cleopatra, ammazzi i finici, ammazzi i nazisti, poi si allea con i tedeschi, e prima la guerra strungarica con i nazisti, con i razziali, tutti quanti felici. È sempre lui, attraverso, non si ferma mai, Con Cleopatra da Marco Antonio, che con Matari sta sempre a truffare, con quello a Brigate Gobbers, a Pia Tutti Felici, li porta la barca con i romani, a un certo punto i giapponesi con i romani, ma che dove fa? È sempre lui, Non ho capito. È sempre lui, sono vent'anni che lo studio. Calma, questa è la tipica crisi da stress da studio. Di solito arriva la sera prima degli orali, a Lorenzo gli è arrivata subito, hai capito? No, ma Robespierre, rappa, se sempre. Ma quando sono vent'anni che lo studio, ma quando muori? Sono vent'anni che lo studio, ma quando muori? Sono 10 anni. Calma. Ne posso più, No, calma. Ma posso fare a mezzi? O fa a mezzi con lui, No, ma come a mezzi con lui? Lorenzo, non so se qualcuno di voi ha capito di impreciso i collegamenti storici in essi tra c'era Cristoforo tutto. Colombo e Robespierre. Ho fatto accumulare degli elementi e ci siamo arrivati. Fantastico. Bellissimo. Quando si dice che l'esame di quinta è una vera cortina di ferro. Ecco, da cosa deriva questa cortina di ferro? Allora, si usa questa espressione quando si vuole dire che qualcuno si è chiuso in una condizione di ostilità, oppure che una barriera dello stesso genere gli è stata eretta attorno da altri per proteggerlo o comunque per separarlo dall'esterno. È un termine magari che si ritrova molto nel giornalismo e poco nella lingua parlata, insomma, almeno nella nostra. E il modo di dire risale ai tempi... Sì. Non ci posso credere. Tra tutte le mazurche... Ci devi credere, certo. Insomma, il modo di dire risale ai tempi della netta separazione tra Occidente e Stati comunisti e venne pronunciato da Winston Churchill, il primo ministro inglese, il 5 marzo del 1946, negli Stati Uniti, ovviamente, durante un lungo discorso. La frase conobbe grande fortuna in seguito, soprattutto durante gli anni della Guerra Fredda e del blocco sovietico. La cortina, che anche Guerra Fredda in realtà ha una storia molto simile a quella della cortina di ferro. È diventata un po' anche quella un'espressione brava, come brava, brava Nina, grazie è diventata anche quella un po' una parte per il tutto, no? Una figura retorica, quasi un'espressione abbastanza comune, perché sì, si dice c'è una guerra fredda in atto, non più solamente tra i due blocchi comunista e americano, ma anche tra i vicini, spesso e volentieri, tra i vicini di casa, c'è una vera guerra fredda in atto, tra sue opinioni soprattutto e su gestioni delle cose. E quindi si procede generalmente con una vendetta molto, come dire, scaglionata e precisa, che è quella dell'occhio per occhio e dente per dente. Tra vicini ci si rompe il vaso dei fiori, si mette il veleno per le formiche dove c'è il tuo gatto, cose di questo tipo. E in questo caso, occhio per occhio, dente per dente, lo tiriamo fuori perché, vabbè, è un'espressione che tiriamo fuori che dal nostro cilindro per in realtà raccontarvi da dove deriva, perché è abbastanza particolare, ma penso che l'origine sia anche piuttosto nota. Allora, al contrario della carità e del perdono cristiano, questo motto è preso dalla Bibbia ed è una delle leggi mosaiche scritte nell'Esodo. Venitemi a parlare ancora di principi. Esattamente. Non so se avete sentito cosa ha detto la Nelia. La frase è famosa anche come legge del taglione e suggerisce di ricambiare con un provvedimento di ugual misura un torto subito, vendicandosi una mano per la mano, un occhio per un occhio, un dente per un dente. E la origine però reale di questo detto e di conseguenza di questa legge risale al codice di Hammurabi, che è stato stilato appunto dal re babilonese Hammurabi nel secondo secolo avanti, millennio avanti Cristo, in cui si legge una frase simile, di cui però la nostra cara Sabrina Carollo non ci porta nessuna fonte. Vorrei proprio vedere il cosa poteva essere, un papiro, no, una tavoletta d'argilla in cui c'era scritta questa cosa, il codice di Hammurabi. E quindi procediamo in maniera molto molto molto spedita, vediamo un po', avevi qualche richiesta tu? Non so, qualcosa di... No, davvero, no. Vedi tu. Ostracizziamo. Però, no, prima di ostracizzare, siccome parliamo di babilonesi, esodo, leggi mosaiche, così possiamo... Ti farei ascoltare qualcosa a questo punto. Un intervento cult. Spappari! Uomini di inaudita violenza, di inaudita ferocia, figli di Dio Odino, io vi dico, vostro re, che questa volta i romani hanno tirato troppo la corda. E quindi io vi dico che chi la fa, l'aspetti. È chiaro? Chiaro! Sapete voi qual è dei romani la città, diciamo, più grassottella, diciamo, più prepotente, la più grossa? Roma! Bravi, indunato. Romani, Roma, per forza, ci potevo anche arrivare da solo, ma volevo vedere se lo sapevate. Roma, e io vi dico, sbabbari, che noi Roma la raderemo al suolo. Noi Roma la metteremo a carne e pesce. Noi dove passeremo non crescerà più neanche un filo d'erba, è chiaro? Chiaro! E allora, sbabbari, im a Roma! A Roma! A Roma! Portaci a Roma anche tu. Sbabbari, io vi porto a Roma per lo stesso motivo per cui è andato anche Attila, personificato da un giovane abate Antuono, e anche perché poi sono stati fatti vari ratti tra Sabine e non solo, perché pecunia non olet, ovvero dal latino il denaro non puzza. La locuzione si usa quando si vuole commentare un attaccamento, oh grazie mi mancava, come un attaccamento ai soldi che non si cura minimamente della provenienza di questi ultimi, anche se è decisamente ambigua oppure contraria ai propri principi. E secondo la leggenda, questa frase è stata pronunciata dall'imperatore Vespasiano, noto non solamente per il pecunia non olet, ma per altre cose che olet parecchio, a cui il figlio di Tito rimproverava di aver messo una tassa sui bagni pubblici. E quindi anche vediamo come anche all'epoca di Vespasiano, quindi siamo a vedere proprio nei primissimi decenni dopo Cristo, vediamo come il problema dei bagni a pagamento affliggesse già la società come lo fa oggi con la città di Firenze. Perché Firenze è un po' una cariatide, lo possiamo dire? Sì, Firenze, si può dire. Diversi punti di vista. Diciamo, siamo nell'occhio del ciclone, dentro l'occhio del ciclone da qualche mese per tantissime vicende, avvenimenti e cose. Quindi possiamo dire che Firenze è veramente una cariatide. Ma la cariatide è una persona che è o si comporta da vecchia, rimanendo immobile senza reagire, proprio come facevano le cariatidi, queste statue scolpite a forma di donna che ornavano generalmente i templi greci. Grazie. Brava Nina! Insomma, è quasi mezz'oretta che vi intratteniamo con questi detti, però io vi ricorderei un pochettino i nostri contatti, i nostri social, i nostri, il palinsesto. Sì, posso partire io? Parta. Bene, che c'ho tutte le informazioni proprio di fronte a me, così non devi torcere gli occhi. Va bene? Allora ricordiamo Benissimo. Il social Wombat, tutti dal primo sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, posta wombat@insiberia.net per scriverci, infamarci e dirci che siamo bravissimi e per mandarci le foto del Wombat nel mondo. Quindi se andate in viaggio o al di fuori, diciamo, della Toscana, sì, ci potete mandare le fotografie del Wombat in posti più o meno interessanti, ma anche se li trovate nei cessi pubblici a noi piace lo stesso, ci mandate perché una bella mail con una bella foto in allegato e noi la pubblicheremo nel sito. Ma anche dai, se le ho trovate alle cascine del riccio va bene uguale. Beh sì, poi certo, che a Firenze ce n'è così tanti ormai che poi altrimenti diventa anche banale, ma se invece le trovate anche su Firenze, su un posto veramente interessante, potete benissimo mandarceli. Gli ultimi aggiornamenti del Wombat sono da Germania, da... L'ultimissimo, se non erro, non era quello più. Dalla... No, forse dall'India. Sì, gli ultimi forse erano dell'India. Accidenti, però volevo come invece... questo Wombat. L'ultimo Wombat comparso nel nostro sito, nella lista dei nostri podcast, è la nuovissima trasmissione Sessioni Notturne. Oggi è andata in diretta la prima puntata di Sessioni Notturne, fantastica trasmissione di hip hop. Questa in particolare è stata dedicata all'hip hop italiano e agli album dell'hip hop italiano usciti nel 2018. È interessante, sono tutti bravissimi, sono piacevoli, allegri, felici e questo è un punto in più per la nostra Radio Wombat. Sono grandi complimenti. Sono una fentata di freschezza. Sì, una fentata di freschezza. Esatto, sì, molto piacevoli, bella musica e quindi complimenti, benvenuti, buon inizio, sarà dura ma sarà anche divertente e quindi benvenuti. E anche perché effettivamente una trasmissione di pop mancava da un pochino di tempo. Infatti, ed era un gran peccato in realtà, perché poi comunque è un genere che se vai a spulciare per bene si possono trovare tante cose interessanti. Molto, molto, molto interessanti. A questo punto quindi ricordiamo il giovedì alle 16.30, Sessioni Notturne, la nostra nuova trasmissione in diretta. E poi in replica la troverete il sabato alle 19, quindi orario aperitivo, perfetto. Fare l'aperitivo con un po' di musica hip hop è ottimo, soprattutto il sabato. E la successiva replica invece, dopo quella del sabato, la troveremo il lunedì alle ore 15. Ok. Premerenda, diciamo. O dopo pranzo, a seconda a degli seconda orari. A seconda in cui mangiate. Per me è alzate. Quasi pranzo in realtà. Le 15? Sì, generalmente sì. Più o meno. Sì. È così. E, che altro? Ricordiamo le nostre repliche invece il sabato alle ore 18 e la domenica alle ore 15. Per adesso direi che può bastare così. Sì, non sono segnalati eventi particolari nel fine settimana, mi sembra. Beh, perché tutti a Roma al corteo. C'è il corteo contro le grandi opere. Esatto, quindi inutili. Tutti a Roma. E allora io a questo punto farei sentire un pezzo musicale che si intitola Garibaldi fu ferito, ma questa volta non è quello che hai sentito finora. Non è quel Garibaldi. Ma un pezzo, diciamo, un po' più interessante dal punto di vista musicale, forse. Forse, chi vediamo. Lo sa, ora vediamo e poi ci dite. Garibaldi Blues. Yeah boy. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i suoi soldati. Per Garibaldi viva, Garibaldi che si ferì. Garibaldi Garibaldi aveva un socio, si chiamava Nippino Bixio, venne giù da Busto Arsizio e nei mille si arruolò per Nino Bixio. Viva Nino Bixio che si arruolò. Strofa regionale. Giunsero a Calatafimi e incontrarono i francesi, che rimasero sorpresi dal furore degli isolani per la Trinagria. Viva la Trinagria, terra del sud. Garibaldi amava Anita, che era la sua preferita, ma l'amore durò poco, perché un giorno Anita morì, e per Anita, amen, per Anita che morì. E arrivarono a Teano e si strinsero la mano, gli altri stavano a guardare, sventolando tricolo, e per l'Italia, viva, oh, per l'Italia dell'unita, e per l'Italia, viva, a per l'Italia dell'unita, e per l'Italia, viva. Per... Eccoci, non si riusciva a comunicare, perché questo pezzo ci distraeva. Non si riusciva a smettere di ascoltare questo Fever Garibaldi Blues di Bruno Lauzi. Tra parentesi, Garibaldi Blues, tra parentesi, Garibaldi fu ferito. Garibaldi fu ferito. Capito? Complimenti. Complimenti a Bruno Lauzi. Fastidio, quasi. Due pezzi contemporaneamente nel cervello, a questo punto della settimana mi mandano in tilt. Va bene. Allora, continuiamo il nostro viaggio per le forche caudine. Perché se mi metti su ancora un pezzo del genere... Allora, passare... Oggi bisogna leggere, poca musica, leggere tanto. Tanto, tanto. Passare sotto le forche caudine significa subire un difficilissimo esame, un vero e proprio attacco soprattutto al proprio orgoglio, senza avere la possibilità di fare diversamente. Il modo di dire si rifà a un episodio della storia romana, quando i soldati di due legioni sconfitte dai Sanniti in Campania, nel 321 a.C., furono costretti a passare a capochino, umiliati e vinti, sotto una specie di arco costruito da due lance che erano state piantate in terra, una terza messa per orizzontale, come segno di umiliazione e sottomissione ai vincitori. L'episodio avvenne a Caudio, luogo non meglio precisato, ma vicino a Benevento, quindi Caudio, Caudine, le forche caudine. E poi vediamo un po' la perfida Albione. Albione è, indica in maniera dispregiativa la terra d'Albione. Dio, dispregiativa, io sapevo di casa. A me ricorda sempre quello che fa le scarpe qui. Il Fibiaro di Via Nazionale, Albion. Che sfrutta ancora il povero vecchino in vetrina a cucire le scarpe. Avranno 85 anni. Probabilmente lui. Si sono fusi, sono diventati la stessa persona. Passavo, ero andata al transfer l'altro, scusate, all'altro giorno e sono passata proprio di fianco e c'era il povero vecchino. L'altro giorno, un paio di mesi fa. Ecco, bevo un attimo, scusate. Sì, sì, rinfrescati un po'. Ah, bene. Quindi, la perfida Albione, epiteto dispregiativo che serve a indicare la Gran Bretagna. Generalmente, quindi più che Albione è perfida, generalmente si usa quando si vuole sottolineare uno o più aspetti negativi di tale paese. Albione è infatti il nome più antico conosciuto della Gran Bretagna. La sua origine va fatta risalire probabilmente al vocabolo latino albus, che significa bianco, che è poi effettivamente il colore delle scogliere di Dover. E che sì, queste scogliere si vedono arrivando dalla costa francese. L'origine della definizione nel suo complesso è invece più incerta. Pare che la vulgata secondo cui Napoleone ne fosse il padre sia stata smentita da documenti precedenti. Bousset, già, non so chi sia Bousset, già nel XVII secolo, quindi comunque prima di Napoleone, aveva definito il nemico inglese la perfida Albion, La frase raggiunse così grande popolarità in Italia perché usata anche da Mussolini durante un comizio del 1935 a seguito dell'embargo deciso dal governo inglese. Dai, fallo, ti prego. Lo vuoi davvero? Sì, e ora è arrivato il momento. È il 1938, 38 come la febbre che la rivoluzione fascista provocò alla storia. L'Italia si espande di diritto sul Mediterraneo. Tutti s'affanna col paraocchio bidimensional borghese a parlare solo dell'Africa, la Grecia e l'Albania. Ma la voce di Barbagli si staglia audace fuori dal coro. L'Italia ha diritto alla sua espansione anche in verticale. Ma come? E dove, gli si chiede increduli? Non la luna, pallido sasso rivoltante di romanticherie per lacrimosi pagliazzi sodomiti, ma Marte, per Dio, Marte, e da rossa ad asifarne. Ed ecco volargli appresso gli ingiusti strali. Sognatore, fantascienzo, sciarlotto, squilibrato, arriva la pazza volante. Egli era solo, come quel genovese nella Spagna prefranchista. Eppure non si perse d'animo. Per il progetto della nave ci si avvalse della spontanea collaborazione di un promettente fisico di via Panisperna. E al fine, eccola pronta al varo. 6 tonnellate di purissimo acciaio nostrano, sospinte ad una miscela di petrolio e uranio impoverito, ma con molta dignità. La Repentaglia 4. Le prime 3 sono finite per errore sulla Libia, cosa che prima o poi ci faranno pagare. Pini è già alla guida del fascello. Tutti son pronti all'impresa. Ma ecco giungere uno strano infante danzerino. È il piccolo Bruno Caorso, balilla di Rimini, che si sogna eroe. Che vuoi, gli fa Brusco Barbagli? Voglio venire con voi, servire il duce. L'ilarità dilaga come una febbre. Tu, ma sei un bimbetto scolare. Ma ho 37 anni. Allora scappa, nano, che il circo sta partendo. 4 uomini missile si stagliano verso il futuro. X, X, B, B, B, V, IV, I, I, I. E il resto lo sapete. S'è portati poche provviste, certi di trovarne in loco, anche per non far figura di taglietto che va all'estero e ordine maccheroni. Ma tra... Attenzione, attenzione, stavamo facendo il punto sulla scaletta e ridendo soprattutto. Perché è una scaletta complessa, si passa un po' da un secolo all'altro, allora così, bisogna stare sul pezzo. Scaletta salterina. E però, quanto è bella la... Uranio impoverito ma con molta dignità. Io vorrei tanto che Guzzanti venisse un giorno ospite qui, nella nostra radio, nella nostra trasmissione. Corrado, non ti facciamo più andare via se vieni qui. Anche perché l'80% delle cose che abbiamo mandato in radio sono sue. Quindi. Se viene perché ci chiede i diritti delle cose. Sue? Delle, sì, delle sorelle? Aiuto. Vabbè, ma noi vogliamo quando Corrado. C'è poco da pescare nel lago e insomma quando si parlava sempre a questa cena ieri sera o forse anche con qualcun altro di come in realtà anche il panorama della satira, chiamiamola così, televisiva sia ormai un deserto, il deserto dei gobi tipo, no? Non c'è o come niente. Diceva qualcuno a scuola con me, il deserto dei goblin. Okay. Convinto, vabbè, no? Il deserto dei goblin. E quindi ritornando, devi leggerci ancora qualcosa a questa perfida Albione e l'utilizzo fatto dal Duce nel 1935, possiamo dire essere anche il braccio destro di qualcuno, no? Perlomeno per connotare per destra e destra, per destra e destra. Allora, è l'uomo di fiducia, il collaboratore stretto, colui al quale viene data l'autorità e che possiede la conoscenza necessaria per risolvere le questioni. Secondo alcune fonti, la locuzione deriva dal fatto che il consigliere del re usava sedergli accanto al lato destro. Secondo altri, invece, è ispirata al metodo militare greco e latino. In guerra, infatti, i fanti greci erano organizzati in falangi, i romani invece in legioni. Oggi si utilizza ancora il termine falange e non si utilizza più la legione, oppure si utilizza molto meno. Ogni soldato portava lo scudo sulla sinistra, mentre la parte destra era protetta dallo scudo del soldato che gli stava accanto, soprattutto quando si chiudevano a testuggine per appunto difendersi. Infine esiste la spiegazione biblica, ovviamente, figurati se non esisteva. Gesù Cristo parla di destra del Padre, ma la nostra cara Sabrina non argomenta ulteriormente perché non c'è, c'è nulla da argomentare. Ecco, questo Cristo, famoso per 15 minuti, purtroppo è famoso all'eternità, però come diceva il caro Andy Warhol, ognuno di noi nel futuro potrà essere famoso per 15 minuti, e quindi famoso per 15 minuti. La celeberrima frase, everyone in the future will be world famous for 15 minutes, più che mai attuale ai nostri giorni, si usa per indicare una persona assurta agli onori della cronaca per breve tempo e solitamente per scarsi meriti. Generalmente, infatti, 15 minuti di celebrità sono dispensati per motivi sciocchi o per azioni di poco valore, motivo per cui la fama effimera di per sé diventa ancora più breve fino a ridursi a un simbolico quarto d'ora. Insomma, la definizione ha una valenza fortemente negativa, tendenzialmente dispregiativa. E la paternità della frase, come dicevamo prima, è stata data è di Andy Warhol, che la coniò nel 1968 e che con essa ha sintetizzato la forza del suo intervento artistico, che si focalizzava ovviamente sull'inconsistenza della società contemporanea, basata soprattutto sull'apparenza e su star effimere che venivano idolatrate anche, soprattutto in quel periodo, senza possedere talenti particolari. Però si sta parlando di Cristo, di tante cose legate al... Purtroppo, perché sono tutte citate. Effettivamente, se stiamo parlando di frasi celebri e modi di dire, è ovvio che si va a pescare anche nel panorama religioso biblico delle Sacre Scritture. Per cui noi abbiamo la nostra versione nell'alto dei cieli, nella gloria, amen, del trash. SPQR. Pagamento tributi province romane. Aprite! Oh, buongiorno, giovanotto! Mio marito non c'è, e allora dove... Poche chiacchiere, ebreo. Sì. Dai a Cesare quel che è di Cesare. Ma questa è mia, non di questo signor Cesare, che io non ho il piacere di conoscere. Comunque, quanto è che vorrebbe questo? Se... Secondo quanto possibile. Ma niente, io non... No, aspetta! Ecco qua, ho questo. Vabbè, allora me lo saluti, questo avido signor Cesare. Come umano lei, pretoriano, Molto umano, sa? Arrivederlo. Possedeva soltanto quella casupola ed un campicello attiguo nei pressi del lago di Tiberiade. Ecco qui, amore, ecco. Tu, ecco. Tu ti metti qua e sta... ecco, così, Papà, che cosa devo fare? Niente. Stai normale, E tu fai lo spaventapassi. Perché lo fai benino, tu. Ecco, pronti, fino a noi adesso. Avanti. Ecco qua. Aspetta. Dai. Normale tu. Dai, Pina! Dai, pronti! Dai! Tra gli esosi tributi dei romani invasori, le carestie, le gazze che gli beccavano i seni e i maledetti bambini della scuola di fronte, i fantozzi se la passavano veramente male. Dai, Pina, che ce la facciamo! Lo spaventapazzi. E ti viene benino. Benino. Ma anche i bambini, tra tutti i bambini della scuola di fronte. In realtà questo è un frammento di 8 minuti preso, vabbè, da uno dei film più beceri del povero villaggio, sì, che è super fantozzi, però comunque c'era questo excursus praticamente dalle gabelle, anzi all'epoca non erano ancora gabelle perché è più medievale gabella, però insomma da la riscossione SPQR dei tributi di Giulio Cesare fino all'arrivo di Gesù. E quindi è proprio il caso di dire o tempora o mores, che significa che tempi e che costumi, no? Ma sento troppo silenzio qui. È vero, c'è quasi un rimbombo, sembra una camera anecoica. Oh, ora sì, che va bene. Sentite questo violino sotto, è una che allegria di testa, davvero. Tanta allegria. E quindi, o tempora o mores, è il grido scandalizzato di chi vuole sottolineare la corruzione del tempo presente rispetto a un passato che si ritiene essere sempre migliore, in una modalità in cui moralità e bontà erano diffuse. L'esclamazione è nuovamente di Cicerone ed è trascritta nella prima Catilinaria, l'orazione da lui tenuta in Senato per accusare Catilina di aver tramato contro la Repubblica. Cicerone si scaglia contro la corruzione dei tempi e denuncia anche il tentativo da parte di Catilina di farlo assassinare per nascondere le sue colpe. Insomma, è stato un po' come menare il camperlaia. Quindi, detto di chi si comporta come se non volesse arrivare al dunque, chi cerca di sviare l'attenzione perdendo tempo e girando intorno alla questione, anziché affrontarla direttamente. È analogo a ciurlare nel manico, che letteralmente significa condurre il cane per l'aia, che è lo spazio antistante la fattoria. Probabilmente il modo di dire trae origine dall'immaginario di un cane, dall'immagine di un cane che viene condotto in uno spazio in cui abitualmente si muovono gli altri animali da cortile, creando così confusione e distogliendo l'attenzione da ciò che conta. Allora, altra possibile provenienza del detto è attestata da Paolo Minucci, che nel Malmantile riacquistato, libro del 1688, commenta così: l'aia è un luogo troppo piccolo per un cane da caccia abituato a spazi più ampi, a boschi e luoghi più scoscesi. E quindi, appunto, ciurlare nel manico. Io questa non la conoscevo proprio. No. Si usa quando si vuole indicare chi sta perdendo tempo, chi tentenna e non sa prendere una decisione precisa. Il verbo ciurlare, la cui origine è latina, e sembra sia una forma sincopata di circolare, ovvero muoversi in giro e girare, significa non essere ben saldo, e si usa solitamente per gli strumenti da lavoro che non stanno ben fissi nella loro impugnatura. Il badile ciurla, come appunto il manico di un coltello. Il badile ciurla è una cosa che mi è venuta in mente a me ora. Tanto per restare sempre in tema, non è, mi ha visto la mia faccia forse. Mutantis mutandis. Cambiate le cose da cambiare non significa, come diceva qualcuno, cambiatevi le mutande. No, davvero. Cambiatevi lo slip. Lo slippino. Che nella traduzione letterale del latino appunto è cambiate le cose da cambiare e si usa sostanzialmente come sinonimo di fatte le debite proporzioni per sottolineare come al di là dei cambiamenti circostanziali e delle situazioni contingenti la questione sia la medesima, sia in riferimento ai mutamenti nel tempo che nello spazio. E, è un detto, diciamo, che viene usato in maniera molto più letterale. Io a questo punto ti darei un po' di riposo. Grazie. Perché mi sembri un po' assetata, senza fiato, e allora non so se ti ricordi di Lorenzo quando cantò la sua hit negli anni 90. Adesso vediamo un pochettino, caro, il nostro caro Corrado, cosa ci racconta. Look. cura, la tematica devi morire, la Dio devi morire, l'italiana devi morire, l'inglese devi morire, educazione devi morire, controlla devi morire, applicazione anche insomma devi morire, panico, panico, manda a fidare, e purtroppo è carota, è grata a cambalesa tu. È già finito. Ci fa restare di sale, quindi ci fa restare di sasso o di stucco il nostro caro Guzzanti con muco nasale se cerne su di noi. E quindi ci fa rimanere basiti, stupiti, proprio come si narra nella Genesi, in cui Lot, nipote di Abramo, disse poche parole alla moglie di non voltare. No, non era questo. Dalla moglie di Lot non seppe resistere e non rispettò la raccomandazione divina e per punizione fu trasformata in una statua di sale. Mi mancava, vi tengo, diciamo così, sui carboni ardenti ve lo dico la prossima volta che cosa è successo alla moglie di Lot. va bene, perché dobbiamo andare agli esami con una persona ora e soprattutto io poi vi devo dire l'ultimo detto della serata per chiudere, sì, dopo educazione devi morire. Latino, devi morire. Qual è il lago più grande d'Italia, signor Vista Capo? È facile, lo dice anche il nome, non è vero, il lago più grande d'Italia. Lo dice anche il nome. Lo dice anche il nome. Lago Maggiore. E me lo immaginavo. Ve lo immaginavo che ci cascava. Il lago Maggiore non è il lago più grande d'Italia. Si dice Maggiore ma non è Maggiore. Il lago di carta è maggiore di lui. E appunto è il lago più grande d'Italia. Carina, non è vero? È spiritosa. Ti prende un inconvulso. Vogliamo fare qualche domandina sulla storia, signor Twistacapo? Nel suo dritto. Dunque siamo un po'. Signor Twistacapo, dove è morto Garibaldi? Garibaldi? Capri! Lo sapevo, di Staccato! E di nuova! Molto spiritosa, signor Staccato! Ve lo immaginate Garibaldi a Capri con la sua barba? Con il suo slip? Che fa i tuffi dal paraglione? Caprera! Non Capri. Garibaldi è morto a Caprera. Signor archivista capo. Qual è il nome di un pachiderma, signor archivista capo? Pachiderma qualunque. Un pachiderma. Artali! Vedo che non ha perso l'abitudine di insultare i suoi superiori, signor archivista capo. Ma signor maestro, io non so nemmeno cosa significa un pachiderma. Ecco, già lo so. Leggila con me per l'affare del pappagallo. Perché parla il pappagallo? Che c'entra il pappagallo? Costui vuol fare l'archivista capo e non conosce le nozioni più elementari. Quindi ritengo a ragion veduta. Totò agli esami. Bocciati tutti. Bocciati tutti da Alberto Sordi. Eh? Pensa un che po'. Che banda. E quindi vi avevamo promesso, chiudiamo in bellezza in maniera frizzantina con il termine taffazzata, che è entrato negli abituali modi di dire per indicare un comportamento masochista, dichiaratamente autolesionista e con una sorta di soddisfazione per tale atteggiamento. La paternità è del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che negli anni 90 introdussero il personaggio di Tafazzi, da qui l'origine del nome, nelle loro gag. La prima apparizione televisiva di Tafazzi risale al 1995 in Mai dire gol. Giacomo, vestito di nero, con una cuffietta intinta sulla testa e una bottiglia in mano, si colpiva i genitali ripetutamente cantando «Oh, oh, oh, oh!» sulle note di Gam Gam, colonna sonora del film Giona che visse nella pancia nella balena del 1996. 94. E quindi nel 1996 l'equipe di ricerca capitanata dalla genetista Silvia Bione battezzò Tafazzina in onore del personaggio la proteina responsabile della sindrome di Barth, individuata dopo lunghi studi. La capito? Che studi? Forse ho la sindrome di Barth. Vabbè. E così ci lasciamo. Saluti e baci. Per stasera è fatta. Giovedì prossimo. Giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Quindi in streaming nelle frequenze del Wombat. Oppure la nostra radio AM 1359, se ci ascoltate mentre tornate a casa. Bene, se avete una fantastica radio, autoradio, esatto. AM o una radio in casa. È molto bello è cucinare ascoltando la radio. È vero. E allora, ciao. A giovedì prossimo. A giovedì, ricordatevi di ascoltare Radio Wombat. Ciao. Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 25 c'è a Laurentina. Bruno l'infame ha cambiato gestione e prosciutto più buono da Sergio dietro la piazza. Ma non te fa lo scontrino. All'uscita dell'Aurelia c'è Casalotti Boccea. Fai la conversione e c'è il tabacchi notturno. Se chiuso di qual controviale c'è il distributore. Che te frega il resto, il distributore. Ma te frega il resto. Allora vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 29 c'è Acilia Casarpalocchio. Dietro il bar di Enzo c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a Bucca Pazza. C'è sta il cartello, batta fidà, sono buoni tutti. A me dice una scritta sul cartello, sono buoni tutti. Ma quasi fa? Questa è a Garbatella, ancora deve...